pannello basso su questi. Oh, oh, perfettamente, non è allineato. Cercando di trovare la combinazione del microfono a tavolo, questa faccio nel partito. Ah, ho capito. Ho capito. Lo so. Entra di nuovo. Come c'ha gli stessi colori? C'ha il rosso, il nero, la massa è il giallo. E non l'ha fatto. Non sto riuscendo a levarne piede. E questo non vuol dire niente il fatto dei colori, tutti quanti fanno questo errore, che si basano sui colori. I colori di un microfono hanno un collegamento, i colori di un altro microfono possono avere un altro collegamento diverso, per cui non è detto che debba essere per forza compatibile con i colori dei fili. Certo che sì, però già fatti con presupposto che la massa va con la massa, quello non ci piove. Ma non lascia perdere questo discorso, massa, ma come stai facendo? Dimmi quanto serve. Ce l'hai uno spinotto da mettere nel baracchino? Uno spinotto è uno spezzone di filo, ce l'hai? A 4 punte, a 5 punte, quanti eri quello spinotto? Ce l'ho così, adesso viene attacco, come le stavo provando a filo a filo. Filo con filo, però viene male, adesso li attacco uno spinotto, perché ce li ho solo a 4, come ho fatto con l'F16, e l'F16 non l'ho trovata subito la combinazione, infatti mi alzo che l'ho attaccata da questa pluma, me l'ho segnato, come lo devo rimettere l'F16. Appunto, cosa ci vuole fare? Cazzo, sono una vita che sto sempre dicendo come si fa per trovare i collegamenti in 5 minuti di orologio ci vogliono, anziché stare lì sempre saldando, disaldando, e poi a un certo punto si brucia anche lo spinotto. È una fesseria, nel vero senso della parola, per qualsiasi microfono. Sì, aspetti un attimino che adesso agisco un attimo. Vedi che provo a cambiare, a mettere quella prolunga, io giù. Eia, d'accordo. E adesso ho saldato lo spinotto a 4 in questo microfono. Adesso poi mi giro i fili, la prolunga che ho, giro i fili dentro il connettore da 4. È così che devi fare, fai in fretta così. Guarda il telefonino, salve. Io guarda il telefonino. Ora. Sabe, guarda il telefonino, guarda, su WhatsApp. Bellissimo. Come lo ascolta? Benissimo. Mi prova un passaggio più lungo. Allora ho trovato la combinazione. Ora. Sì, ma l'amplificazione può aumentare? Ora. 1, 2, 3, adesso è alta la precipitazione, cambio. Stai innescando, se hai qualche altra cosa accesa spegni la prima, perché stai innescando, già amplifica, però stai innescando. Lo so, come c'è qualche problema del microfono? C'è la batteria, non per volte, se siete vuoi la batteria, no? Da 9 volte, non è un microfono con la batteria da 9. Certo, volevo mettere il microfono a parlare, funziona bene, dovrebbe funzionare bene questo qua. Adesso come va? Come la modulazione? La modulazione già si capisce, però c'è l'innesco, è molto forte anche. Per cui non è giusto il collegamento che hai fatto, riprovane un altro. No, secondo me è giusto. Ora ci rimesco? No, adesso non c'è, cos'è che hai fatto? Hai abbassato Mackie Gay? Ora. La radio buona, Sì, diciamo che già è accettabile, dai. faccio che tu mi metti al microfono, metti. Quindi va bene ora come amplificazione ce n'è o non ce n'è? Attento Giulio. Cosa ha detto Salvi? Tu. Attento Giulio. Giulio, ora. Io sono qua. No, ha qualche problema al proprio microfono, i contatti sono giusti. Sicuramente il PTT è probabile come fermo da anni. Si sia oscillato qualcosa, devo guardare dove c'è il coso del tasto. Tanto ce l'ho con lo strap di contatto, se glielo metto appena non li fa male. Ok, vabbè, d'accordo. È bello con l'apparecchio, la foto l'ho mandata. Beh, è un grido. E che poi è questo che sta usando ora? Sì, è questo, sì. Che capo, scusa. Com'è la radio? Come te, una bomba. È basso, mi è a uno e mezzo, uno e mezzo quasi. Forte. Devo fare qua. Quindi per quel microfono niente. Lasciamo. Io adesso come sto arrivando, passo solo, no? 9 più 2, stavo dicendo, e sto parlando sottovoce io, non è che sto parlando a voce alta, sto parlando proprio sottovoce. Adesso si sente che c'è un microfono originale, questo è il microfono proprio originale dell'apparato, marchiato President. Guarda che va benissimo, quel microfono va benissimo, non bene, benissimo. Vero, Eia. Questo è proprio il suo microfono originale della Parigi, non è un microfono di quelli adattati, CPE o roba del genere. Sono io che ho appena la voce rauca oggi, Vabbè, fuma, Di Marco fuma, e vedrai che, vabbè, ogni tanto anch'io ho un po' di abbassamento di voce, ma in questi ultimi giorni non ne ho avuto, ma comunque già mi succede spesso. Ma io non fumo però, non ho mai fumato. È positivo, già lo so, che non ho mai fumato lì. Ora. E quindi sono 9 più 2. Passi. Vediamo un po' così caglia, va. Ma è 9, sì. Adesso mi hai fatto scattare. Ma è freddo. Ora. 9, 12. In questo momento è 9 più 12. Già va bene, qualcosa di guadagno. Molto, non qualcosa, molto guadagno. Da 10 punti S. Va bene che va bene. Altre immagini questo microfono, Ha piato anche il colpo. Paito. Secondo me è PTT, il coso del tasto, che non è qua a innescare, c'è qualche problema, quindi devo guardarlo bene. Guarda, cosa fa come con l'MB più 4, con 60 euro mi sembra che costa da fusare, una cosa del genere, se lo trovi mai da fuori, più o meno quella cifra mia, un MB più 4. C'è nuovo questo, perché me lo devo comprare nuovo, lo sistema, no? Ehi, che altro a fare questo ancora? Già lo metto a posto, sì. Vabbè, d'accordo. Non vuole entrare nessuno stasera oggi, Ancora è presto. A quando adesso sei quasi a entrare qualcuno ogni tanto, quando si svegliano dalla pennichella. Io invece non mi sono ancora riposato. Facendo qua tra una cosa e l'altra, mica, vai da Grasso. E sono ancora qua, era sempre acceso la radio, se l'avevo in ascolto, ero sempre in rendi. Nemmeno io, non mi curicolo la sera, mi rimango giù dalla poltrona, per cui davanti alla televisione, a guardarmi con l'accidenti di Maria De Filippi, che a me non mi interessa, ma siccome ce la guarda mia moglie, io sono lì insieme a lei, allora anch'io, bene o male, anche se non voglio, lo vedo. Sì. Ora sembra caldo. Stanno pieni prima ne avevo in tutto 12 baracchini avevo, adesso mi sono venduto, mi sono disfatto di tutto, venduto, quasi regalate io, per cui non è che mi interessava più di tanto. E quando ne ha 2 o 3 va benissimo. Cosa ne fa di 12 apparati? Niente, mi prendeva spazio e basta. Mi toccava ogni tanto, già ce l'ho ancora qualcuno conservato su mansarda, ho 50-24 toccai, poi ho un altro anche, si chiama della Faietti, è il Telstar, se ricordo bene, una cosa del genere. E gli ho mandato la foto del microfono. E gli ho rubata. Stavo dicendo, è quel maracchino che hai tu, cos'ha? Anche le bandane per aria? Certo che ci diamo le bandane per aria. Va bene. E i canali come sono? Solo c'è 40 canali? No, 5 bande c'ho. E allora già va bene, ce n'è più che è sufficiente. Va benissimo allora, Savi. E domenica, ora di pranzo, dopo che ho mangiato, ho acceso un attimino, e su 45 c'era preparazione. Ho chiamato e mi hanno risposto subito. Ho fatto anche la registrazione. Anch'io. Ero a 27.335, mi sembra, sì. E c'era il coso, le Canarie c'erano, l'isola delle Canarie. L'ho chiamata alla prima chiamata, ma non ho subito risposto, ma poi ho chiuso, non mi interessava più di tanto. Quando è? Ieri lo stesso c'era uno italiano che però stava modulando dall'isola delle Canarie. Finché è italiano va bene, ma questo stava parlando un po' lo spagnolo o portoghese che fosse, capito? Sì che non è che capivo tutto quello che diceva, però già avevo capito abbastanza bene. Ecco. C'è tutto sotto controllo, mi ha dato una paio di cazzonari, non si sa mai. E lasciatelo inserito, visto che ce l'hai, questo accordatore, lascialo inserito, lo vedi, no? Beh, certo che è inserito, però se magari non ti accorgi o tocchi un po' meglio l'altro, non stari, no? E perché i poveri da soli si girano, bastano toccarli, se tu li tocchi, stai attento, no? No, perché c'avevo cosa vicino, no, come stavo facendo questi lavori, però dai un'occhiata, state lì, ho guardato, ma già è tutto preciso, è tutto a posto. Appunto, andare, se che la pizzeria il lunedì ce l'avete chiusa? No, è aperta, il lunedì sono libero io. Ho capito, e vabbè, meglio così, poi oltre a te, chi c'è anche? C'è mio fratello, poi c'è un altro ragazzo che fa 3 extra alla settimana. Ho capito. Quello cosa fa? Per portare le pizze al tavolino? Allora non ce l'avete il tavolino voi. Comunque ha fatto bene Sergino a inventarsi il lavoro, ha fatto bene, almeno è tranquillo, non deve dare conto a nessuno. Già ho rompicapo. L'altro passaggio, quello prima, non l'ho copiata, perché stavo parlando con mia figlia. No, ho detto che sapete, ma Sergino ha fatto bene a crearsi il lavoro, ha fatto bene, almeno non dipende da nessuno, è tranquillo, e ce l'ha fisso il lavoro. Vabbè, ma già ci sono un sacco di setature, c'è un po' che cosa da pagare, vai qua, vai là, e spese contro spesa. Non è semplice gestire un'attività. Lo so, ne ho pagato per 50 anni io, da autonomo, figurati. Quelle cose si sa, ci sono, però si campa, almeno si campa, bene. Beh, forse per la pagare. Lo so, come sempre da pagare, però va bene lo stesso, non c'è problema. Attacca il PMR, salvi. Mi sono allontanato un attimo che sono andato a dire ai bambini a scendere i cani, bisogna scendere giù. Vabbè, allora vai a portare il cane, va. No, io non devo scendere io. Il maschietto scende al grande e la femminuccia scende il piccolino. Ho capito, vabbè. Stavo dicendo, accendi il PMR, canale 1. Io giù, nulla, batteria in scarica. Eh, vabbè, là, non fa niente. Ma lì l'antenna sul tetto c'è? No, il gommino suo, mi metto al centro, perché se mi sposto di un metro non mi senti più o non ti sento più. Ho una posizione, c'è un varco libero che mi consente di arrivare un po' dappertutto. Là. E io da qua sono tutto libero, io penso che mi sentano anche a Porto Torres col PMR. Sì, a me una volta mi hanno sentito in corso, da messo poco. Un amico che c'era lì per lavoro, sono riuscito a collegarlo quando era in Corsica. A voglia, c'è spazio libero già a farlo. Evidentemente c'è la propagazione il giorno, e che ne so, sicuramente così. Ma perché non è propagazione? La propagazione va per tutti, per tutte le lunghezze d'onda, no? Dalle punti radio, vabbè che punti radio trasmette da lì e poi da lì aggancia. No, ma non ce ne sono, punti radio su questo sul PMR non ce n'è, no. Da lui non usiamo punti radio, no. Abbiamo un semplice giocattolino, mi immagino una apparecchiatura da 20-30 euro, mi cosa ti credi che sia. Non hai visto poi le fotografie nel corso, che ti ho mandato. Eia, ma il suo è più bello, il mio è un giocattolino, mi aspetti la mano la foto, il mio è un giocattolino, non il suo già è bello. Ehi, 30 euro costa, mi sembra che costi, 30 euro, non salvi, mi sembra, anche addirittura 29, mi sembra, se ricordo bene. Ma quale, quello che c'è sopra l'apparecchio professionale? Ehi, quello giallino, non l'hai visto? Che bello è, il mio è un giocattolino davvero, aspetti la mano la foto. E ne ho anche un altro uguale, solo che questo qui che ti ho mandato la foto è nuovo, mentre invece quello che ce l'ho, questo qui ce l'ho nemmeno un anno, di Natale scorso ce l'ho, dai, dunque un anno a Natale fa, mentre l'altro ce l'ho alcuni anni, ma mi era caduto, funziona sempre, però non si vede più la frequenza, non si vede, capito, i numeri della frequenza non si vedono più. Ciao Claudio. Ah, allora già lo sai, sì. E certo che sì, che lo so, aspetta, non lo so, la voglia. E allora? Facendo stavo, signor Vini, mi diceva, meglio poche cose che fa, c'ha ragione il papà, non riesco a fare un accidente. Che rottura di scatola, l'inverno è una rottura di scatola. Ciao anche a Sorvidio, buonasera. Ciao Claudio, buonasera, ben entrato. Mi ti ho mandato la foto, Giulio. Quello che ho io è proprio un giocattolino, l'hai visto? Avevo comprato la cuffia anni fa, non mi ricordo, ma l'avevo pagato la fesseria. È un giocattolino proprio. È mio, se ti stai dicendo che ho pagato 29 euro, cosa? Perché cosa ti credo? Un fiato è, per carità, ma comunque, già va bene, tanto non usiamo poco e niente. Avanti Claudio, allora sei preoccupato perché sta piovendo, purtroppo l'inverno è così. Non è tanto il costo, no, di questi giocattolini, come li chiamate voi, che non sono omologati, non è il problema. C'è proprio un rischio di appagare, perché omologati non bisogna fare, quindi omologati e analizzati andano da Rosarone, la camera da letto, già. Quelli invece cinesi, quei Bofeng lì, magari in batteri di butto. Quello sì, sicuramente sì. Cosa ci vuoi fare? Ci arrangiamo, vabbè, poco si usa, anzi prima lo usavamo un po' di più, adesso ce lo siamo qui per dimenticati, oh Claudio, di usare il Baofeng o il PMR, dai. No, io non l'ho tolto, no, nel senso che purtroppo non ho apparecchiature come avete voi, questi portatilini così, capito, quindi per me è un rischio maggiore usare il PMR con le radio amatoriali che tu ben conosci. No, non fa. Non fa, e quindi ho preferito non collegarlo neanche, capito? Usare le radio amatoriali sia in V che in U, però a livello amatoriale. Tutto qua, perché per me se no diventa pure un problema. Bene, bene, Sarvedio, hai venito, che non di sede, mi intendi, chi s'antenna, chi stazionarie, il tuo microfono. Mamma mia, come sto? No, tutto a posto qua. Stazionarie non ce n'è più, no. Per il momento non ce n'è. Ho accordato il sito, non ce n'è. No, il problema è il tuo microfono a tavola, non vuole andare. Le connessioni sono giuste, ma non va, c'è qualcosa. Devo vedere con calma, ma adesso non mi interessa più mettermi a smontare il microfono. Se non dici che c'è il microfono non è al massimo, no, anda, io ti ho sentito poco fa, non pensare, io sono sempre all'ascolto. È chiaro che se tu lo tieni a 8 innesca, ma non solo il tuo, anche se lo dovessi fare io innesca, le connessioni sono giuste perché c'è un rientro di radiofrequenza. Cosa vuol dire? Giulio, mi corregge se sbaglio, tu stai usando un'antenna nel fagiolo, ok? Tutta smontata, tutta fatta in una detta maniera, perché giustamente te l'hai riparata, eccetera. Stai usando un accordatore. È chiaro che se tu vai a mettere un microfono preamplificato, che già percepisce tutto il minimo di quello che ci può essere vicino, e lo metti più alto del solito, ti fa rientro di RF, quindi ti fischia. Non è che non funziona il microfono, io ti ho sentito poco fa. Se tu quel microfono metti a 5 e metti i toni a 3, io ti faccio vedere che c'è una bellissima preamplificazione e non fischia il microfono. Non ci sono dubbi, guarda. No, ma sta proprio dando problemi di PTT, Ocla, perché non esce, qua adesso va attaccato, non esce, non si muove manco un strumentino, capito, del microfono, quindi è proprio da microfono. Ma allora già di una frutti dello strumentino, ma quello strumentino non c'è, cosa serve? Per darti la cosa della batteria, cosa c'è? Non serve a nulla questo strumentino, allora c'è, vabbè, dello strumentino. Guarda come esci di radio, non guarda lo strumentino. Sì, ma ho capito, non si muove più, è bloccato, quindi io penso che abbia problemi al PTT anche. Non si muove più, non ha segno di vita, come che c'è la batteria attaccata, capito? Adesso provo ad attaccare. Io poco fa ti ho sentito con Giulio, uscivi benissimo. Avanti Giulio. Infatti al primo impatto è uscito bene, poi hai cominciato a fischiare. Ma io infatti gli ho chiesto, ma non mi ha risposto lui. Ma in quel presidente cosa c'è? Anche il coso c'è? Il Mikey Gay hai messo? Guarda che non è compatibile con certi baracchini, l'amplificazione del microfono con l'amplificazione del Mikey Gay, dunque lo devi alterare il Mikey Gay. Succede così anche, se ce l'ha quello, io non lo so, non mi ha risposto, te l'ho detto poc'anzi, ma non mi ha risposto. Se fa due regolazioni vedi che già funziona quel microfono, io ne ho zinco di 3 più 5, 2 più 4 e poi ne ho dato altre 6. Con tutte le radio vintage, ti posso dire che hanno sempre funzionato bene, non lo so. È certo che sì, è certo che funzionano bene, si tratta di saper fare il lavoro come si deve, certo, perché se no è chiaro che a un certo momento, infatti gli ho chiesto anche se avevo altre cose vicino, accese, e che lo sa, boh. E vabbè, io la conosco io questo video, è tanto sempre i facendi, non aggiustando, i facendi. E a me lo dico, così no, state prendi e controprendi, no? Se una cosa va bene lasciala stare, cosa stai a toccare di tocca. Io fammi tenere il tuo microfono, vediamolo già che va. Sei andato a Roma a pigliare il tuo microfono. Ciao video, ma me la comunque. Come il grillo, allora, il grillo come fa? Cazzo, se fa brinchenne, come te lo dici bicco, cazzo, se fa brinchenne, da un posto all'altro, e lui è così, è fatto così, da sempre, però, da quando era bambino, piccolino, non c'è mai assentato, così si dice, a Sassari. Ci sono i fili volanti, ci sono i fili appoggiati dentro il connettore. E quindi adesso cerco di bloccarli, ma sto uscendo ora. Certo che stai uscendo, saltare di fili oggi, ma salda di fili, cazzo. Boh, non si può usare un microfono con i fili appoggiati, lo saldi per bene, poi lo chiudi e lo provi. E non che lo rifruscia, cioè se vuoi provare un microfono, secondo te, tutto a becco, tutto volante, il microfono una volta fatte le connessioni, metti che sono chiuse, si chiude tutto e si prova, punto. Ma chiuso Barò. Chissà quante volte avrò monterà quel microfono. Vabbè, dai. Sempre di fare le cose per me, ti ho detto, con calma, con pazienza e fatti una volta per sempre. Non stai sempre ciafuglieni. Va bene, dai. Non esagerare come ti ho detto, con quella, anche se è l'accordatore, non esagerare. Via. Allora ci vuoi fare? No, perché ha l'antennino che senza accordatore ha delle stazionarie. Poi ci mette sì l'accordatore, d'accordo. E poi ci mette la spinta, insomma. Esagerando anche con la spinta, non è accordatore che valga, eh. A questo punto, non lo so, magari incendia la frusta nera o cosa è? Boh, tanto ne pegano 60 watt, 50 watt, cosa? Con l'accordatore, come dici tu, è sempre l'accordatore ti toglie le stazionarie dalla linea della radio, voi in antenna avete sempre le stazionarie. E certo che sì. Vabbè, comunque. Ma lui è precipitoso, capito? Non si vede mai ottenendo il massimo quello che può ottenere, ma gli ho detto fai le cose piano, lascia il tempo per arrivare all'antenna, quando ti arriva l'antenna te la sistemi, tranquillo e pacifico, e non hai bisogno di niente, nemmeno del rinforzo, perché con l'antenna è più che sufficiente. Permettete di parlare con me, io vi sto ascoltando, state parlando con me. Allora, ma se io devo trovare la connessione di un microfono, ci devo avere il cavo in mano per trovare la combinazione. Come faccio a trovarla se non monto il connettore? Tant'è vero che il mio baracchino ha 6 punte, questo microfono ne ha 4, quindi ho dovuto fare una prolunga e ho un qualcosa che è un stato di come si dice, lavorazione. Quando poi è finito, detto che funziona bene, viene chiuso tutto. Poi, parlando dell'antenna, se l'antenna va male, che così non potevo trasmettere, per portare il coso ci devo mettere un accordatore. A me l'importante è che le stazionarie non mi rientrino, non mi faccia rientro dentro il baracchino e mi bruci i finali. Poi se al finale poi l'antenna c'è ancora le stazionarie, questo io non lo so, non sono antennista. No, tu non hai ascoltato, dov'è? È il pericolo lì. Quando tu attacchi un amplificatore ad un baracchino che già sta uscendo con stazionarie, perché l'antenna c'ha stazionarie, intanto non va bene perché come vedi ti fa rientro di RF. Ok, poi può essere pericoloso perché l'accordatore ti accorda tra il baracchino e il lineare. In antenna le stazionarie rimangono, mi quasi convinto che ti ne ribuca. Ciao, però io vedo che ora non me ne sta segnando le stazionarie perché c'è l'accordatore inserito. Dovessi spegnerlo, ora sono alto. Quindi sono costretto a usare per portarlo più di 5 watt, 4 watt, capito? Vabbè, comunque poi a giugno adesso già stabilizziamo tutto, non c'era bisogno neanche più di accordatore. Cosa giugno? No, non ero io, Ocla. E chi era? Avanti. Ho detto che l'accordatore accorda solo l'antenna, non lineare. Digito, già meglio di Aboli. Davvero? Ma adesso come sta uscendo questo microfono? Ma c'è un butto o lo lascio? Se giù, dice la Franco, dov'è? C'è un butto o lo lascio questo microfono? Non capisco, se mi avete detto che mi sta uscendo. Bene, così. E quindi sei d'accordo, Franco? No, d'accordo. È un casino, quando c'è un antennino così ci avrei non ti fidare molto. Anche se hai l'accordatore, quell'accordatore dove l'hai messo? Tra baracchino lineare o tra l'antenna e lineare? Dove l'hai messo? Fammi capire. L'accordatore l'ho messo, è l'ultimo, lo strumento è l'ultimo, attaccato all'antenna. Poi dopo c'è l'altro spezzone che va nel lineare, dopo c'è l'altro spezzone che va al baracchino. Giulio. E così vuole, se per il contrario è facile. Come sta la radio, sapevi? Perché se è uscendo basso di radio, è pulita però è bassa. Franco, l'Apasiru, che solo faceva il grillino. Avanti, amico, buonasera. Comunque, ciao Claudio e ciao Giulio. Avanti, Mario. Ciao Mario, buonasera. Infatti è Ross, perché lui non ha capito. Allora, mi stai ascoltando, Savi? Ok, allora l'antenna. Il cavo dell'antenna va dove c'è antenna rosmetro. Ok. L'altro spezzone va X rosmetro, ok? Trasmettitore rosmetro, ad antenna lineare. Ok, poi il X del lineare va all'attacco del baracchino, può uscire al buio. Non si comprende nulla, così l'hai messo. Questo 125, conferma. Quindi se l'hai messo così, che questo è il collegamento esatto per far sì che un accordatore lavori con in mezzo tra l'antenna e il lineare, ok, tenendo conto che c'è anche il rosmetro attaccato, è fattibile quello che sta succedendo, no? Nel senso che ti va in quasi in protezione e quindi ti fa rientro DRF, capito? Perché se stai uscendo la modulazione c'è, la ricezione c'è, i collegamenti sono giusti, non ce la fai. Se tu stacchi il lineare, prova a attaccare il lineare a vedere, che te lo dimostro. Lineare, non hai nessun rientro di RF, la modulazione, come ti ho detto poco fa col microfono a 5 a 6, è bellissima, chiara e pulita. Se tu attacchi lineare c'è un conflitto tra lineare, accordatore e antenna che fa sì che ti mandi in protezione e quindi non riesce, anche se tu vedi che non ce n'è, ma lui in trasmissione non riesce a leggerle, ok? E ti fa andare in tilt il microfono. Giulio, correggimi se sbaglio, l'avete sentito il passaggio? Beh, è quello che ho pensato anch'io, Esla. Infatti ho detto, adesso le connessioni le ho rifatte, sono giunte, perché se no il microfono non sarebbe uscito dal radio. Ok, adesso il tutto sta a aspettare quando piatto l'antenna e vedere un po'. Perché se no potrebbe anche avere qualche danno il microfono, per carità, può succedere, c'è 3 anni, era fermo tanto tempo, però già mi stai dicendo ora che il microfono sta uscendo meglio. Potresti, vabbè, ma tu non ti prende a te di WhatsApp per fare una registrazione, fammi sentire questa modulazione, se è finta o se è fatta. Ma te la può fare chiunque, te la può fare anche Giulio, io non te la posso fare. Però ti ho dimostrato che, come ti sto dicendo io, ok, se tu non usi il lineare, quel microfono lo puoi usare tranquillamente. Anche se lo aumenti chiaramente fischia, ma in quel caso là, con il lineare attaccato, non hai proprio modulazione, hai solo grilli, cioè non sta uscendo proprio, le connessioni sono giuste. Giulio, vieni avanti. Qui per salutare a Mario e anche a Franco, dai, che abbiamo lasciato un pochino in parcheggio, visto e considerato che Salviglio stava facendo questi lavoretti a microfono. Avanti Mario, ci sei ancora? O ti sei stancato, te ne sei andato? Fai tutti i lavori come tu hai detto, quando domani, dopo domani, quando avrai l'antenna come si deve, non con un frustino così, con un frustino non si va nuda. È un antennino che ti consente di trasmettere, però non puoi pretendere che cose buone, diciamo, dai, non puoi pretendere il massimo, figurati. Va bene, dai. Claudio si è sentato un attimo, avanti Mario. Se Savio stava chiudendo, mi sembra che aveva detto che chiudeva, mi è parso di capire così. Savio, ci sei o sei andato via? No Giulio, io non sto chiudendo, ti ho chiesto poc'anzi, allora gli amici li ascolto molto bassi, mi arrivano molto bassi. Ti stavo chiedendo, cioè, ora la radio è buona e preamplificata o com'è la radio? Io l'amplificazione non le sento, la verità, però la radio è buonissima, ha una bella radio, bella pulita, per cui va bene così, sai, devi avere pazienza e aspettare quando sarà il momento, quando avrai l'antenna come si deve, allora potrai fare tutte le prove e sono ben felice di aiutarti a fare le prove, per cui non c'è problema. Abbi pazienza ancora un giorno, due giorni, quanto sarà avanti questa antenna, questa benedetta antenna. Avanti Mario. Capo, non ti preoccupare, capita anche a me queste cose, non è un problema questo. Io a Carlo ho detto passino, cioè di segnale 2, però di radio non capisco quando parla, radio 1 cazzo proprio, non capisco le parole, certo che sta modulando ma negativo capirlo, poi del resto non so cosa dirti. Va bene, bene Mario, noi siamo di fronte, siamo, è per quello che ci ascoltiamo bene. Ci vediamo anche le antenne se possibilmente. Niente, avanti Claudio, se sei rientrato. Riprendo io, allora Claudio ancora non è rientrato. Ebbene, sapete, io sto uscendo con l'antennino di macchina, per cui sarà anche per quello che lo sentite masso masso. No, è solo questione di un paio di giorni, dopo sarà anche lui in grazia di Dio, come suol dirsi, per cui va bene così. No, ma era solamente delle prove che stava facendo, anche perché inizialmente eravamo soli io e lui, per cui adesso va bene, possiamo fare questo tranquillamente. Avanti Mario! Sì, ma quello non è il problema, quella che manca a te, l'antenna che manca a te ce l'ho io qua, bella sul tetto, a parte dei 6 metri di palo c'è anche altre 7 di antenna, c'ho tutto libero perché sono la zona più alta che c'è al posto, figurati se non arrivo bene lì a Porto Torres, già arrivo bene a Sassari, troviamoci a Porto Torres. Avanti Giulio. Ok, beh certo che sì, già lo credo, tu la posizione ce l'hai buona, a differenza della mia che sono in una valle praticamente rispetto a Sassari, per cui però mi accontento, anch'io in qualche maniera riesco a difendermi ugualmente, no, non c'è problema. Avanti Salvidio. Sì, stavo dicendo Giulio, adesso è più alta la radio, è sempre a massa. Cioè, mi riesci a fare una registrazione, ma la invii, a vedere com'è. Sì, te la posso anche fare un video, ti faccio, dai. E così dopo te la mando nel frattempo, dai. Va bene, dai, intanto rilancio il microfono a Mario, che sarà lui poi a portare avanti il questo. Vai Mario! Ok, d'accordo, dai. No, al prossimo giro, casomai, eventualmente. Quando è pronto già te lo invio il coso, il video, o salvi. Avanti Franco. Capo. A Saverio adesso l'ho sentito basso, però l'ho sentito. Non è una radio di due, però l'ho sentito. È aumentato leggermente un po' di segnale. Non so cosa ha fatto. Avanti Saverio. Eccoci qua. Vabbè, volendo già possiamo aumentare, ma se pure dopo ci manca la radio, guarda un po' se mi ascolti. Capo, adesso si è aumentato, quando mi ha detto guarda un po' se mi ascolti, si è aumentato a 5, una radio di 3. È più comprensibile. Non so cosa hai fatto, probabilmente hai attaccato qualcosa. Positivo, però deve essere ormai, c'ho appena di rientro il microfono, ma mi già accorgo. Infatti volevo sentire da Giulio se mi fa la registrazione, se il microfono sta preamplificando, perché se no lo stacco e attacco l'altro. Già ne ho altri di microfoni. Ok, a te ormai. Capo, serve. Comunque ti consiglio, con l'accordatore, se hai stazionarie, non usare un lineare, perché io qualche tempo fa ci ho buttato via un baracchino, così ci ho buttato via, perché stavo usando quelle stazionarie. Però vedi un po' tu. Avanti Giulio. Ma già l'ho detto, va, già lo sa anche lui, solo che ha fretta, ecco qual è il problema, ha fretta, va bene, dai, avanti Mario. Arrivati a lunga. Ciao Giulio. Ciao. Ma Luca stava parlando, aspetta. Riprendi Saverio, è entrato Luca, scusate un attimo, avanti Luca, cioè sì, Luca se n'è andato, dai, è entrato a salutare e basta, avanti Saverio, anche Saverio è sparito, avanti Franco. Però Mario, l'accordatore quando c'è il stazionario è sconsigliato, perché io non lo metterei mai più, non lo metterei, a parte che come hai detto tu, quelli della ZG non sono neanche consigliabili, perché non sono affidabili. Sì, è tutto vero. Io ho l'HP1000, ho della ZG, l'ho usato con un altro baracchino, non radio, un baracchino, l'ho usato tanto, cosa sarà, l'anno scorso, là, e ho bruciato una radio perché c'avevo stazionario e purtroppo se n'è andata. E io lo sconsiglio perché ci ho pianto una radio, ho rimesso una radio per quel motivo lì. E infatti non lo farei mai più quando c'è un stazionario attaccare un lineare. Ole, ma non ho, scusate perché mi ero assentato un attimo, ma non l'ho messo senza l'accordatore, appunto ho messo uno strumento con l'accordatore per evitare abbassarmi le stazionarie, ma comunque facendo passaggi piccoli, perché lo stavo testando, giusto perché mi è arrivato un paio di giorni fa, ma adesso fra qualche giorno c'è anche l'antenna nuova a posto e quindi non ci sono più problemi. Giulio, non credi che io non ho capito adesso? Ha detto che lui sta facendo passaggi piccoli e allo stesso tempo sta usando l'accordatore di antenna. Sì, ma non è sempre consigliabile, sapi? Capisco, te l'ho detto, ha detto anche Claudio poc'anzi. Non è consigliabile, anche se hai un antennino, quell'antennino praticamente con l'alimentatore lineare si può fondere, per cui devi stare attento, fai passaggi piano, corti e va bene lo stesso, voglio dire, nel senso che per accontentarti tu, però non è così che funziona la Surya, non è così, l'antenna deve essere in ordine per poter usare il lineare. Avanti Mario. Sì, diciamo che, vabbè, te lo posso anche dire, non ne ho problemi intanto. Sto usando un tappa, sto usando un 680 con MC60. Infatti l'unica, vabbè, se anche si attacca un baracchino esco bene lo stesso perché ho tutte le abbinazioni fatte bene. Ad ogni baracchino gli ho abbinato sempre un buon microfono e niente, mi piace uscire bene, non mi piace uscire con le come si dice, cracchignando, là, non mi piace così. Niente, avanti, vediamo un po' se c'è Claudio che è arrivato. Avanti Claudio non c'è, avanti a te Giulio. Ok, sì, riprendo io, faccio questa battaglia, poi mi assento, perché mi hanno chiamato giù dal piano di sotto a casa, ci sentiamo eventualmente dopo. Ok, riprendi tu intanto Mario e poi fai girare, ricordate perché c'è anche Salvedio. Avanti Mario. Io vi ascolto a tutti, non ci sono problemi. Mi sto ascoltando comunque, dai, che sto facendo qualcosa qua. Sono quel